questa canzone parla di un problema molto grave che riguarda i giovani. Siccome noi siamo comunisti, no? Allora facciamo una canzone seria, perché così, così ci danno più voti. La sfida è la sua. Faccia tempo! Madonna! Madonna! Madonna! Madonna! Madonna!